Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Oggi torniamo a parlare di una delle misure che più aveva fatto discutere tra quelle introdotte dalla durissima manovra Salva Italia, la prima, varata a tempo di record dal governo Monti appena insediato lo scorso dicembre. Poi, come ricorderete, sono intervenuti i provvedimenti con la manovra Cresci Italia. Comunque, andiamo a quello di cui parliamo stamattina. Richiesta da alcuni, contestata da altri, è stata definita come una faccia della tanto temuta patrimoniale. Stiamo parlando della tassa sui cosiddetti capitali scudati, ovvero quei beni trasferiti o detenuti illegalmente all'estero e poi fatti rientrare in Italia e quindi fatti emergere regolarizzati con il pagamento di un'imposta e senza nessuna ulteriore conseguenza, almeno fino a questo momento. Nella prima versione della manovra, lo ricorderete perché ne abbiamo parlato diverse volte, era stato previsto un prelievo una tantum dell'1,5% su questi capitali, nel mirino tutti i beni regolarizzati, in tutte e tre le operazioni di scudo attuate fra il 2001 e il 2010, sempre dai governi appunto precedenti. Si tratta in totale di 182 miliardi, il gettito complessivo recuperato dalla manovra arriverebbe quindi, stando alla relazione tecnica del Tesoro appunto al decreto, a qualcosa come 2 miliardi e 190 milioni di euro. La scadenza per versare la prima delle due rate del 50% ciascuna previste è stata fissata per domani, 16 febbraio, quindi ormai siamo vicinissimi a questa prima scadenza, ma nel frattempo, in queste ultime settimane, che cosa è successo? È che sono cambiate alcune cose. Non ci riferiamo più ai dubbi sulla costituzionalità della norma, che rimangono, ma sono rimasti lì, e che sembravano ad un tratto averla messa del tutto in discussione, però sembrano ormai essersi risolti questi dubbi appunto. Con il maxi emendamento, questa è la novità, sono state introdotte delle modifiche molto consistenti che modificano le aliquote e rendono la tassa da una tantum ad un'imposta di bollo annuale. E poi, altra novità sopraggiunta nelle ultime ore, i chiarimenti arrivati ieri sera da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di calcolo dell'imposta, situazione che ha messo in crisi molto consistente, molto forte, tutti gli intermediari appunto che erano incaricati di gestire la situazione in questi giorni. Quello che non è arrivato è la proroga che appunto gli stessi intermediari attendevano. Insomma, per chi non ha molta dimestichezza con la questione, questa mattina rifaremo un po' di punto della situazione con i nostri esperti ed interlocutori. Saluto e ringrazio per essere qui a Milano con me stamattina il dottor Gabriele Labombarda, dottore commercialista partner dello studio Bernoni Professionisti Associati di Milano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. E naturalmente l'altro interlocutore su questi temi che disturbiamo costantemente anche quando va in trasferta e non è a Milano, l'abbiamo raggiunto anche oggi, collegato telefonicamente da Bologna con noi, l'avvocato Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria, la società fiduciaria delle banche popolari. Avvocato, buongiorno e bentornato. Buongiorno Deborah, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, radioascoltatori che come sempre ci possono chiamare all'800 24 0024, in alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Se avete tempo potete anche andare ad animare come al solito il dibattito che si scatena sui nostri argomenti sul nostro profilo Facebook. Ci siamo all'indirizzo, al profilo salvadanaio-radio24. Prima di partire con le attività scudate, andiamo a vedere le attività finanziarie di altro genere. La borsa oggi, che è piuttosto positiva e soprattutto in Milano a trainare il resto d'Europa, il FTSE MIB ha un rialzo adesso dell'1,41%. Segue Francoforte più 1,10%, Parigi più 0,98%, Londra più 0,24%, l'euro sul dollaro a 1,3149. E lo spread, come vi dicevo appunto stamattina, si era risvegliato di nuovo un po' in rialzo, è andato fino a 371 punti base, poi è risceso a 366, insomma si naviga intorno a quel livello. A Milano oggi volano i titoli della banca Monte dei Paschi, più 9,20%, la fondazione Monte Paschi ha deciso di rinunciare al controllo assoluto dell'istituto di Rocca Salimbeni, oggi ha il 45,8% circa del capitale ordinario, che arriva a quasi il 49% contando anche i titoli privilegiati in portafoglio, La Fondazione Montepaschi deve ristrutturare il suo debito di oltre 1 miliardo di euro e quindi per farlo passa attraverso anche la cessione di una quota di Monte dei Paschi, che dovrebbe essere di circa il 15%. Si sono già scatenati molti fondi di investimento appunto intenzionati a mettere le mani su almeno parte di questo pacchetto, e questo chiaramente stamattina fa lievitare le quotazioni del titolo. Questa situazione di Monte dei Paschi porta con sé anche la Popolare di Milano più 6,62%, Unicredit più 4%, bene anche i titoli di Salvatore Ferragamo più 5, Prismian più 4, Toz più 3,5, STM più 3,32, UbiBanca più 3,24. Stamattina ci sono stati anche i risultati di Eni. Il titolo ne aveva beneficiato appunto in apertura con circa un rialzo dello 0,7%, anche adesso è positivo, in questo momento non lo sto trovando, ecco, più 0,23%, ha ridotto notevolmente la sua prestazione nonostante anche il dividendo che ha deciso il gruppo di riconoscere agli azionisti, che è tutt'altro che trascurabile perché è cresciuto 1,04 euro appunto per azione. Questi sono un po' i temi del giorno, direi che c'è anche Parmalat da segnalare perché anche in questo caso la borsa scommette su una maxi cedola in arrivo da parte del gruppo di Collecchio, e questi sono appunto i principali temi della giornata. Volevo ricordarvi un'altra cosa prima di lasciare la borsa e andare al tema di oggi, che dal 16 al 19 febbraio, quindi da domani fino al 19, alla Fiera di Rho si tiene la edizione 2012 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, Radio 24 e Radio Ufficiale. Ci saremo anche noi di Salvadanaio domani in diretta negli stand appunto della BIT. Chiaramente parleremo di turismo, di tutele per i consumatori e per i viaggiatori, faremo il punto sul codice appunto del turismo varato lo scorso anno, con alcune novità che sono state introdotte di nuovo dalle recenti misure del governo Monti. Lasciamo la borsa, allora andiamo all'imposta di bollo sui capitali scudati. Dottor La Bombarda, visto che è la prima volta che interviene a Salvadanaio, inauguro subito la puntata con lei per chiederle intanto quali chiarimenti ha appunto comunicato ieri sera l'Agenzia delle Entrate. Anzi, ci racconti un po' cosa sta succedendo nei vostri uffici in questi giorni? Ecco, è sicuramente questo un momento caldo, perché il decreto che è uscito alla fine di dicembre dava mandato al direttore dell'Agenzia delle Entrate di emettere un provvedimento attuativo che avrebbe regolato quelle che erano le problematiche da gestire per consentire agli intermediari per poter adempiere all'obbligo normativo. Qual era l'obbligo normativo emendato? Era quello di arrivare alla data del 16 di febbraio del 2012, quindi domani, e a quella data l'intermediario doveva fare due cose. Uno, in presenza di un conto secretato del contribuente, figlio di un rimpatrio eseguito attraverso le varie discipline dei differenti scudi fiscali che sono susseguiti, pagare una somma, una tantum dell'1% del valore del conto secretato. E quella era la prima possibilità. La seconda possibilità era invece quella, nell'impossibilità di fare questo versamento, di effettuarsi entro domani, di fare una segnalazione all'anagrafe tributaria, la quale poi, attraverso i meccanismi dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe iscritto a ruolo quella somma per una successiva azione coattiva per il pagamento nei confronti del contribuente che aveva aderito allo scudo. Ma una segnalazione che in qualche maniera denunciava una irregolarità di questo contribuente, o denunciava il fatto che l'intermediario non era stato in grado di effettuare appunto un calcolo? Sostanzialmente questa seconda, per dare la possibilità all'Agenzia delle Entrate poi di recuperare quell'1% del quale stiamo parlando in riferimento a somme che l'intermediario non era stato in grado di disporre e quindi di poter versare l'erario. Il provvedimento che doveva regolare le modalità e consentire agli intermediari di capire come attuare quel prelievo e come quantificare il quantum dovuto è arrivato ieri sera. La persona meno contenta di tutti è stata mia moglie, perché sera di San Valentino ho passato al telefono con clienti e con soggetti interessati. E magari ci sarà stata pure qualche bella donna, noi che ne possiamo sapere. Quindi, sfortunatamente non è questo il caso, poi comunque essendo al telefono. Devo dire che stamattina è un grande subbuglio, perché le fiduciarie, in attesa di una proroga che veniva data come ventilata, erano rimaste, così come gli altri intermediari, le banche, sostanzialmente in stand-by, aspettando che insieme alla proroga fossero delineate proprio le modalità per fare i conteggi necessari per poi richiedere ai loro clienti di effettuare il versamento. Ecco, il provvedimento di ieri sera chiarifica alcuni passaggi, alcuni rimangono ancora oscuri, quello che è certo è che la proroga ad oggi non c'è. Infatti, a meno che non arrivi nelle prossime ore, noi saremo pronti a darne conto. Ho chiesto anche al mio assistente Marco Lombardo di monitorare accuratamente le agenzie per verificare se ci fosse un blitz da un momento all'altro dall'agenzia d'entrata da parte appunto del Ministero dell'Economia e del Tesoro su questo. Prima di sentire Fabrizio Vedana vorrei confermare tutto quello appunto che il dottor La Bombarda ci ha detto fino a questo momento con una testimonianza di un ascoltatore. Max dalla provincia di Como, buongiorno Max, lei parla in qualità di bancario oppure di contribuente che deve pagare appunto e versare l'imposta entro domani? No, parlo in qualità di operatore. Quindi molti in queste settimane ci ha già creato non pochi problemi dovendo spiegare al cliente per dare un sacco di tempo sulla riforma che ha fatto sui bolli, correggendo quella di Tremonti con lo 0,10 e lo 0,15 sul patrimonio. In più le regole sui contanti da spiegare ai clienti, quelle già chiare e quelle non ancora chiare. E poi sullo scudo è veramente un disastro. Io telefonavo per chiedere se c'era una speranza su questa proroga, perché ho visto che nessun operatore è pronto, dei clienti che sono andato che hanno fatto anche scudi fiscali con altri intermediari, ero il primo a parlare di questa imposta dell'1% che poi diventa dell'1,20 e poi dello 0,40 e che poi forse si può cancellare se si mette in trasparenza la parte scudata entro la fine di quest'anno. Insomma, un disastro di cose che vedo tutti gli uffici legali delle banche non sono riusciti a risolvere e neanche a interpretare, quindi probabilmente anche il decreto iniziale non era così chiaro. La domanda alla fine era veramente: non siamo pronti, non vorremmo fare una figuraccia con tutti i clienti che chiaramente non si trovano, diciamo così, nelle condizioni di pagare, anche perché all'inizio era stato detto di pagare l'imposta sulla dichiarazione riservata fatta nel 2001 o nel 2009, adesso invece si tratta di pagare alla data del 6 dicembre. Le banche poi sono molto più pronte alle scadenze di fine mese. Io, se schiaccio un pulsante, ho la situazione dei clienti al 30 di dicembre. Esatto, ma non a metà mese, certo. Questa sinceramente è l'unica manovra che Monti forse non doveva fare, perché ha cambiato un contratto con gli italiani che nessuno dei due governi si poteva permettere di fare e non si è mai permettere di fare prima. Max, grazie per il suo contributo, la devo liquidare velocemente perché devo fare già la prima pausa, però magari un contributo a Fabrizio Vedana di 30 secondi lo chiedo, così per capire se ha informazioni di prima mano, se c'è un'intenzione o meno da Palazzo Chigi secondo lei di prorogare oggi i termini per il versamento. Qual è a suo avviso? Potrebbe arrivare un blitz nel pomeriggio? Lo speriamo, penso di parlare a nome di tutti gli intermediari. Sta di fatto che qualche buona nuova c'è nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che fuga innanzitutto i dubbi sulla portata della norma quanto ad applicazione delle regolarizzazioni e chiarisce una volta per tutte che la responsabilità per il mancato versamento non è dell'intermediario, ma è a carico del contribuente, che evidentemente è un aspetto non indifferente per noi intermediari. Eccoci ritrovati in diretta, stavamo un po' distratti per la verità col dottor La Bombarda in studio a parlare delle bellezze dello scudo fiscale, anzi dell'imposta di bollo sui capitali scudati negli anni passati, come sapete, sui quali le recenti misure del governo Monti appunto sono intervenute con questa nuova fiscalità. Che tra l'altro, dottor La Bombarda, siccome qualche ascoltatore ha interpretato male quello che ho detto all'inizio, cioè dicevo relativamente al fatto che tutti i dubbi di costituzionalità della norma che erano stati sollevati sono stati accantonati, dimenticati, per la verità non è vero, però di fatto intanto si va avanti, non c'è stata nessuna iniziativa massiccia, formale e concreta per sollevare di peso la questione, che oggettivamente c'è, è chiaro, perché lo Stato aveva fatto un patto con i cittadini, poi che siano stati in passato evasori, chiamiamoli come vogliamo, di fatto hanno regolarizzato appunto le loro attività finanziarie in passato ritenute all'estero e così avevano pensato e versanato la loro situazione. Lei che cosa ne pensa di questo fatto? Sì, dunque, riterrei che esistano dei profili di incostituzionalità della norma, soprattutto allorché si va a violare un principio di affidamento che il contribuente aveva sottoscritto quando aveva fatto emergere quelle attività che erano detenute all'estero in violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale. In pregiudicato quello che può essere giudizio personale circa la bontà di quei provvedimenti e la licità di quei provvedimenti, certo è che oggi stiamo parlando di un tema diverso. Andare alla fine dell'anno 2011 a regolare una nuova legge che impone, rispetto a delle imposte sostitutive pagate in passato, un ulteriore versamento è a parità di condizioni probabilmente qualcosa che è assolutamente costituzionale lecito con riferimento a un provvedimento avvenuto nell'anno 2010 o fine 2009, riferimento all'ultimo scudo fiscale, certamente più discutibile se un provvedimento di quel genere, stante che anche eventuali prelievi o dismissioni compiute negli anni addietro, dal 2001 in avanti, rispetto a somme che erano state regolarizzate, uso una brutta parola perché la regolarizzazione è un termine tecnico, però diciamo portate alla luce del sole, grida un attimo più di vendetta. Questo è il motivo per il quale nel corso di vari convegni fatti a seguito della normativa Salva Italia, i tecnici del settore ritenevano che, unitamente a quella che si ventilava potesse essere una proroga, sarebbe stato anche introdotto una limitazione temporale nell'applicazione del comma 12 dell'articolo 19, quello che riguarda l'imposta straordinaria. Ecco, ci traduca tutto in termini semplici per gli ascoltatori. Ci sono due modalità di applicazione di questo scudo, una di questa imposta. Una riguarda conti che ancora sono segretati, un'altra riguarda conti che sono stati segretati in passato ma che sono stati poi dissegretati con il prelievo delle relative attività sottostanti. Quindi se io avevo scudato, quindi nel chiusi 2011, in qualche maniera rapporti chiusi, esatto, se avevo scudato nel 2001 e ho prelevato i conti nel 2002, 2003, 2004, non posso più pagare su conto segretato perché quel conto è stato chiuso nel frattempo. Ha fatto un caso che peraltro ci ha scritto anche un nostro ascoltatore ai nostri SMS. Ma ci sono tantissime persone che sono in questa situazione e non sanno come comportarsi. Invece dovrò pagare, stante la dizione normativa, un'imposta dell'1% straordinaria circa che è parificata alla quantità prelevata da quel conto segretato. Quindi un prelievo fatto nel 2002 oggi sconta un'imposta che è da pagarsi sempre dell'1% entro domani. Tra l'altro questi soldi si possono anche essere, avvocato Vedana, completamente dissolti, perché magari chiaramente il contribuente può averci fatto quello che vuole, comprato una casa, quindi magari non avere più questa liquidità, lui si chiede per quale motivo debba ripagarci di nuovo questa nuova imposizione. Eh sì, è un tema molto discusso, confermo quanto è stato detto da chi mi ha preceduto. Ed è uno dei temi che è rimasto aperto anche con questa circolare, che non ha chiarito fino a quando si deve risalire per fare il calcolo dei prelevamenti e dei versamenti sui conti segretati. Ricordiamo che questa imposta trova applicazione non solo agli ultimi scudi fatti nel 2009-2010, ma anche agli scudi addirittura fatti nel 2001, 2002, 2003, quindi risaliamo molto indietro nel tempo. Quindi su questo aspetto credo che sia importante avere un chiarimento, così come ci si attendeva un chiarimento sull'applicabilità o meno di questa imposta agli eredi nel caso in cui il rapporto scudato fosse caduto in successione e quindi gli eredi subentrano nella titolarità di quel conto. Era tra l'altro anche un caso, se lo ricorda avvocato Vedana, che era uscito fuori con una puntata precedente, mi ricordo di un'ascoltatrice che aveva chiamato per raccontarci che aveva proprio ricevuto in eredità una casa di un familiare, non mi ricordo in quale capitale straniera appunto, e lei aveva, essendosi trovata questo patrimonio ereditato, aveva poi sanato tutta la situazione appunto che doveva sanare e adesso si ritrovava, lo considerava ingiusto appunto, si ritrovava di doverci versare di nuovo questa imposizione. Era proprio un caso, tanto per banalizzare anche la questione e farla comprendere bene ai nostri ascoltatori, che c'era capitato per mano nella puntata precedente, se la ricorda. Assolutamente, anche se su questo la conferma una delle buone nuove contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di ieri è che la imposta trova applicazione solo sulle attività finanziarie. Quindi questo dovrebbe voler dire, se le parole hanno ancora la loro importanza, che sugli immobili scudati, sulle opere d'arte, su tutto ciò che non è attività finanziaria non andrà pagata né l'imposta di bollo speciale né l'imposta di bollo straordinaria. Perché ci ha fatto questa differenziazione, avvocato Vedana, che così lo spieghiamo agli ascoltatori? Perché l'imposta di bollo speciale è un'imposta assolutamente ricorrente, quindi che viene pagata a partire da quest'anno e anche per gli anni successivi, fin tanto che quel rapporto rimane segretato, cioè coperto da questa particolare riservatezza da scudo, che sostanzialmente si traduce nell'obbligo di comunicare quel rapporto all'amministrazione finanziaria nell'ambito di un accertamento bancario. Mentre invece l'imposta di bollo speciale straordinaria trova applicazione soltanto per quest'anno, per quanti hanno fatto gli scudi negli anni passati e hanno comunque tolto la segretazione. E il dubbio che, ripeto, rimane aperto è fino a quando si deve risalire alla ricerca dei prelievi, delle dismissioni di questi conti, quindi tema che era stato toccato anche dall'ospite che ha in studio. Certo, allora andiamo adesso ai valori percentuali, che cosa è cambiato anche con gli emendamenti appunto alla manovra che sono intervenuti di recente. Allora, per spiegarlo prendo a pretesto la domanda, l'intervento dell'ascoltatore da Varese, Gianni, buongiorno. Buongiorno signorina, complimenti per la trasmissione. Gianni, grazie mille per avermi chiamato. Grazie a lei. Dunque, strano che questa volta non interviene Gianni. Sono assolutamente d'accordo. Gianni, non mi sente? Pronto? No. Sì, ecco, no, non ci sente, lei era partito subito a razzo. No, dico perché siccome lei è un ascoltatore fedele, so che interviene generalmente sulle questioni legate alla gestione del risparmio, insomma, so che le piace molto quell'argomento oggi. Sono contenta di sentirla anche su altro. Si ricorda del suggerimento per le obbligazioni in dollari australiani? Sì. Che ho dato qualche anno fa. Guardi che forse è un suggerimento giusto. Comunque, vabbè, la chiameremo come questo, esperto. Sì, ci dica. Aperto, io volevo dire, sono assolutamente d'accordo con gli esperti su questo fatto che secondo me è assolutamente anticostituzionale. È come se uno che va a comprare una Panda gli dà 10.000 euro, porta a casa la Panda, dopo 5 anni la figlia gli dice no, guarda che sono pochi, dammene ancora altri 3.000 e poi ogni anno diciamo ancora il paragone euro. Non è proprio calzante se la compravendita è stata fatta regolarmente, voi se non compri una macchina proprio oggetto di una rapina, di un furto, cioè, adesso non voglio essere neanche pesante con la terminologia, Gianni. Prendo atto della sua riflessione e non sono completamente d'accordo. Comunque, mi dica. Volevo dire, da specificare, no, che non sono tutti fuori legge, riciclatori di denaro, spacciatori di droga. C'è anche chi ha lavorato all'estero come migrante, iscritto all'AIRE, ha lavorato là fino a 65 anni, no? E prendendo 4 soldi, perché allora il franco svizzero valeva 140 lire, i figli sono rimasti a casa, il figlio è rimasto a casa senza mutua, senza assicurazione, senza cure ospedaliere, andando all'ospedale bisognava pagare di tasca propria le cure, il ricovero, no? Quando era il momento delle decisioni per la scuola, no? Il papà non c'era, è andata come è andata, no? E poi dopo cosa succede? Succede che c'è lo scudo, i risparmi del papà vengono portati a casa, no? Pagando la tassa che c'è da pagare, che altrimenti si poteva portare a casa 10.000 euro per volta senza pagare niente, e adesso salta fuori che bisogna pagare ancora. Cioè, per me questa va cosa bene, qui già, lo so, l'abbiamo detto tante volte. Detto questo, aveva una domanda pratica? Anche in base alle istruzioni del fascicoletto che distribuite a sabato con Sole 24 Ore, no? Uno che ha scudato regolarmente, no? E che subito dopo ha chiuso il conto, cosa fa? Deve pagare entro domani l'1% della cifra per il 2012 e poi la cosa è finita lì. Gianni, grazie, si fermi mille, grazie a lei, grazie a lei. Sai che cosa faccio? Ci metto anche Daniele da Napoli, perché credo avesse una domanda simile, poi rispondiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Ci dica. Dunque, io ho scudato nel 2001, ho chiuso il conto segretato nel 2002 e ora sono in costante contatto con il mio intermediario. Anche stamattina ho chiamato in banca per sapere cosa fare domani mattina e mi dicono che non hanno più pallina di quello che andranno fatto. Infatti, Daniele, e le hanno detto la verità, purtroppo. Allora, tutte riflessioni già fatte in apertura, le ultime appunto riproposte dai nostri ascoltatori. Volevo farmi aiutare dagli interlocutori appunto che sono con me questa mattina in studio per Salvadanaio, che cosa cambia rispetto alla aliquota iniziale, quella fissata appunto in dicembre, e che cosa è successo invece con gli emendamenti che hanno toccato la manovra Salva Italia. Allora, si era previsto, dottor Labombarda, all'inizio di pagare appunto un'imposta di bollo speciale dell'1,5% rispetto all'attività finanziaria, una volta calcolata con chiarezza, ammettiamo appunto che si potesse fare tutto con grande facilità, e praticamente il prelievo era una tantum, quello, e basta. Che cosa è successo dopo? Sì, dunque, diciamo così, tutti coloro che avevano rimpatriato del denaro o attività finanziarie in virtù di uno dei tre scudi che sono susseguiti, entro domani, salva la proroga, e vedremo se ci sarà, devono pagare l'1%. È un 1% che è una tantum per i soggetti che non hanno più i conti con il regime di segretazione. Viceversa, per soggetti che continuano a detenere conti in regime di secretazione, si dovrà fare un ulteriore test e vedere se alla fine dell'anno 2012 avranno ancora conti in regime di secretazione. Sul valore di mercato del conto a quella data pagheranno nel 2013 un punto percentuale, 0,35. Quindi per fare l'esempio, per esempio, ci ha chiamato Daniele da Napoli, ci ha detto che ha scudato nel 2001 e ha chiuso il conto secretato nel 2002, lui deve pagare solamente questo 1%. Esattamente. E poi ha definitivamente, speriamo, chiuso il suo... Salvo che poi si inventino qualcosa di nuovo, ma detto quello, il provvedimento di ieri chiarifica anche che in quel caso specifico l'intermediario teoricamente non deve inseguire il contribuente per richiedere la provvista, può limitarsi a fare la segnalazione. Che vorrebbe dire che poi al contribuente nel fine del 2013, inizio del 2014, arriverà una cartella esattoriale per il recupero di quella somma. Il contribuente però può farsi parte attiva lui comunicando all'intermediario la volontà di pagare, fornendo la provvista, mi chiedo se ce la faranno oggi per domani, certo. E in quel caso andrebbe esente da segnalazione, il che vorrebbe dire che la chiude lì e non ha più ulteriori adempimenti. Va bene, questo per il 2012, 2013 e 2014 invece... 2013 e 2014 riguardano solamente i soggetti che hanno ancora conti in regime di secretazione, la banca o l'intermediario farà la verifica alla fine di ciascun anno, le aliquote saranno versate entro il 16 di febbraio degli anni successivi. Saranno rispettivamente per il 2013, quindi con riferimento al 31/12/2012, l'1,35%, gli anni successivi lo 0,4%, che è una imposta di bollo maggiorata rispetto all'imposta di bollo che si paga invece sui conti, quelli non segretati, quelli ordinari che tutti noi abbiamo, che è invece parificata all'1 per 1000 quest'anno, poi 1,5 dagli anni prossimi. Mauro da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, avete già risposto un po' in trasmissione, comunque ribadiamo se sono necessari. Però volevo capire un'altra cosa, siccome esiste una grossa confusione anche sugli intermediari, vedo che anche per farsi parte attiva loro non sanno esattamente come muoversi, però anche evitare una segnalazione che passa per altri canali, agenzie e vario, sarebbe opportuno, solo che chi si trova nella situazione di aver prelevato negli anni 2009-2010 una parte, in questo momento si trova impossibilitato a fare un versamento perché tecnicamente non ce la fa. La famosa provvista di cui parlava la Bombarda, sì. Perfetto, e verrà comunque segnalato, quindi non c'è modo di evitarla a questo punto, potrei dire, se non c'è una proroga. Infatti Mauro, allora noi peraltro, guardi, abbiamo sempre veramente l'ambizione che da Roma ci ascoltino quando solleviamo appunto molto concretamente questi problemi. Avvocato Vedana, c'è da raggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto fino a questo momento, appunto cercando di, se si può, rassicurare anche gli ascoltatori che sono oggettivamente molto preoccupati, anche perché non riescono ad avere neanche la minima assistenza dagli intermediari, che, a cui dobbiamo dare veramente una pacca sulla spalla in questa circostanza. Ci viene raro di poterlo fare, però oggi lo dobbiamo fare. Avvocato Vedana. Sarà una lunga notte, ecco. Cara Deborah, per noi intermediari. Ecco, innanzitutto, per cercare di rispondere all'ascoltatore di Brescia, la segnalazione dei clienti che non hanno effettuato fin da subito il versamento nostro tramite, quindi tramite l'intermediario, non è immediata. La segnalazione andrà fatta, lo chiarisce anche un altro degli aspetti che vengono chiariti dall'Agenzia delle Entrate, che andrà fatta il prossimo anno nell'ambito del modello 770, che è il modello che devono predisporre gli intermediari come sostituti d'imposta, quindi la segnalazione non viene fatta dall'oggi al domani, e quindi questo è un primo aspetto non indifferente, quindi non c'è una segnalazione subito il 17 di febbraio con l'elenco dei clienti che non hanno pagato. In secondo luogo è importante sottolineare che laddove il cliente non abbia le disponibilità subito per effettuare il versamento il giorno 16 tramite l'intermediario, è comunque sempre possibile avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso che, se interviene, quindi la possibilità un po' come col canone RAI, se paghi entro un certo termine paghi una piccola sovrattassa, il ravvedimento operoso è qualcosa di simile, se lo fai entro 14 giorni, quindi ipotizzando che rimanga fermo il 16 entro il 1° di marzo, ti verrà applicata una sanzione che è lo 0,20 oltre all'imposta che devi pagare per ogni giorno fino a 14 giorni. Se non lo fai entro i 14 giorni, il ravvedimento operoso diventa più costoso, però diciamo che in 14 giorni il cliente che vuole essere virtuoso e pagare l'imposta ha il tempo per smobilizzare le attività finanziarie che devono essere smobilizzate per creare la famosa provvista. Voleva aggiungere qualcosa Gabriele La Bombarda? Sì, sono assolutamente d'accordo con l'avvocato sul regime del ravvedimento operoso, anche se in realtà, stante la natura giuridica di questa norma che sta a metà tra l'imposta di bollo e un'imposta sostitutiva di scudo, certo, l'applicazione del ravvedimento l'applicazione del ravvedimento operoso, che mi sembra sicuramente utile, dovrebbe essere benedetta almeno a livello interpretativo. Circa il 770, assolutamente d'accordo con quanto dice l'avvocato. Quello che ahimè il provvedimento di ieri sera non chiarisce è se l'indicazione in 770 in caso di ravvedimento operoso, ammettendo che questo sia possibile, sarà comunque fatta a seguito della mancanza di un pagamento al 16 febbraio o no. Anche lì attendiamo di avere ulteriori lumi. Mamma mia, oggi io vedo l'Agenzia delle Entrate veramente oggi pomeriggio con gli uffici di fuoco, ma forse anche all'Etzoro. Allora chiudiamo con Pietro da Modena, che deve essere telegrafico, non ha attività scudate in passato da oggi sistemare con ulteriore imposizione. Pietro, ma qual è il suo problema? Rapidissimo, se ce la fa. Buongiorno, grazie. Le volevo chiedere, dato che io, è una cosa che non è inerente a quello che state facendo, io ho due pezzi di terra in Croazia comprati diverso tempo fa, sempre dichiarati nella denuncia dei redditi, uno è edificabile e un altro è agricolo. Devo pagare delle tasse, qualcosa, che fino adesso non ho mai pagato niente. Pietro, allora, beh, non credo che sia molto regolare questa situazione. Avvocato Vedana. Sì. Beh, tu sai che veniamo al famoso quadro RV, quello che io tanto amo, sì. Al quale se ne è aggiunto un altro, l'RM, quindi il signore, se ben ho capito, ha dei terreni all'estero, non sono terreni scudati, se anche fossero scudati comunque non troverebbero applicazione queste imposte nuove per i motivi che abbiamo detto, perché si apre solo attività finanziarie. Dovrà mettersele, se non l'ha fatto negli anni passati, nell'RV, e a partire da quest'anno, quindi con la dichiarazione che presenterà quest'anno, con l'unico, dovrà inserirle anche nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, che, al quale è stata aggiunta una sezione, la sezione 16, proprio col decreto Monti, che prevede l'indicazione anche in questo quadro degli immobili detenuti all'estero, quindi, con calcolo e applicazione della relativa imposta, che è lo 0,76 per cento calcolato sul valore del terreno. Allora Pietro, vada da un bravo commercialista, non è niente di particolarmente complicato quello che deve fare, ma si deve imbattere appunto in questi due riquadri della dichiarazione dei redditi, che non sono due targhe automobilistiche ma sono due caselle ben precise dove deve indicare appunto il suo investimento all'estero. Grazie all'avvocato Vedana, Gabriele La Bombarda, chissà che non ci sentiamo presto anche nei prossimi giorni per replicare questa trasmissione qualora questa proroga arrivasse nelle prossime ore. Mi pare che l'auspicio sia molto chiaro in questo senso da parte di tutti, professionisti, commercialisti, operatori intermediari e contribuenti soprattutto. A domani, buona giornata, noi ci sentiamo stasera a Focus Economia.